Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, sono temi che vanno da soli. La borsa sta guadagnando il 4% in questo momento a Milano, il 2,90 a Parigi, il 2,80 a Francoforte, il 2,10 a Londra. L'America più 1,70 da una mano, ma chiaramente è soprattutto quanto è emerso dal direttivo della Banca Centrale Europea oggi, e ne parleremo in apertura. Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, ha confermato che intanto la BCE potrà fare acquisti illimitati di debito dei paesi in difficoltà. Certo che ha rivisto in peggio le stime sulla crescita europea, però attenzione, ha detto l'acquisto delle obbligazioni, cioè dei titoli di Stato, è in linea con il mandato della Banca Centrale Europea. Lo ascolteremo dopo. C'è un articolo che permette questo, l'articolo 18 dello statuto. Ha detto anche che di aver deciso le modalità del programma di acquisto di questi titoli, che l'euro va difeso nella sua integrità e che farà tutto il necessario per l'euro, perché l'euro è un processo irreversibile. Cioè, finalmente, dopo mesi, forse anche un anno, in cui si chiedeva all'Europa, nei suoi vari organismi, tra cui anche la Banca Centrale Europea, un intervento netto in grado di dire sostanzialmente non permetteremo alla speculazione di giocare sulla fine dell'euro, anche se le voci arrivate dalla Germania, dall'Olanda, dalla Finlandia in questi mesi hanno alimentato e hanno buttato benzina sul fuoco della speculazione. Dicevo, finalmente la Banca Centrale Europea ha detto in maniera chiara che agli operatori sui mercati che, attenzione, si muoverà per difendere in ogni caso l'euro, come fanno anche altre banche centrali. La borsa scommette, infatti i titoli bancari vanno benissimo oggi, scommette che questo vorrà dire un abbassamento degli spread in primo luogo, perché è chiaro che se tu ti aspetti che intervenga la Banca Centrale, è difficile andare contro la Banca Centrale e scommettere in un peggioramento della situazione e una non tenuta dell'euro. Lo spread è sceso, e poi ne parleremo, a livelli che non vedevamo onestamente da aprile, e quindi anche sotto i 400 punti, a 380 punti, quello italiano, ma è sceso chiaramente anche quello spagnolo, addirittura 378 punti. E i titoli bancari vanno benissimo, più 10,80% la Popolare di Milano, più 8% la Popolare Emilia Romagna, più 8% UbiBanca, più 7,5% Unicredit, più 6,30% Intesa San Paolo, più 6,20% Monte dei Paschi, più 5,70% Mediobanca, più 5,60% il Banco Popolare, più 5,20% le Generali. In pregiro, tra l'altro, guadagna il 6%, per citare i non bancari: Fiat il 4,30%, Buzzi Unicem il 4,20%, Eni il 3,80%, Pirelli più 3,60%, Atlantia più 3,5% come Telecom Italia, Fiat Industrial più 3,5% come Enel Green Power, il 3,20% lo guadagna Mediolanum, ma anche Exor ed Enel. Negativa solo Luxottica, che perde il 5%, per motivi però molto specifici, poi ne parleremo. Euro in rafforzamento a 4,1,26,31. Quindi è arrivata, come ci si attendeva, ma insomma non era scontato, una difesa totale da parte di Mario Draghi dell'euro, con buona pace dei falchi tedeschi e in particolar modo delle obiezioni della Bundesbank. Chiaro è che adesso sarà importante capire che cosa la Banca Centrale Europea chiederà in cambio dell'acquisto di debito dei paesi in difficoltà, e quindi quali garanzie, quali vincoli. Sarà un acquisto che avverrà attraverso il meccanismo del Fondo di Salvataggio Europeo, ISM, quindi dovrà partire questo fondo che dovrebbe partire a ottobre. Il 12 di settembre ci sarà la decisione della Corte Costituzionale tedesca, ma dovrebbe essere scontato il sì, per cui sarà la BCE acquisterà per conto di questo fondo, ma il dato di fatto, al di là dei tecnicismi, è che d'ora in avanti sarà più difficile speculare e scommettere sulla fine dell'euro e scommettere su spread in rialzo nei paesi maggiormente in difficoltà. Se non usiamo il gallo oggi, non lo usiamo più, un gallo ibernato da settimane e mesi che scongeliamo volentieri. Allora, questa è sicuramente una delle notizie più importanti, oltre che positive, degli ultimi mesi. In una giornata in cui però purtroppo non sono mancate le notizie negative, ne parleremo anche nella seconda ora, ma insomma l'OCSE oggi pubblica il dato sulla crescita economica, nei G7 non trova lo slancio, non oltre l'1,5% nel 2012, rivista la stima anche per il PIL italiano da -1,7% a -2,5% quest'anno, e sono dolori. E poi c'è tutta la parte che riguarda l'occupazione. E infatti c'è il dato anche della Commissione europea, in cui emerge che la conferenza Jobs for Europe, che c'è un continuo peggioramento della situazione del lavoro nell'area euro e in Europa in generale. Ci sono 116 milioni di persone a rischio povertà e quasi il 94% dei lavori che si sono creati nel 2011 sono part-time, è una cosa impressionante. Il 42% dei giovani ha contratti a tempo determinato. In Grecia intanto, sempre sul fronte disoccupazione, c'è un nuovo record, il 24,5%, cioè un greco ogni 4 è disoccupato di quelli che possono lavorare, una cifra impressionante obiettivamente, e nei giovani, pensate, il 55%, cioè più di uno su due tra chi ha 15-24 anni senza lavoro, sono cresciuti i disoccupati in Grecia di 380.000 in un anno, sono arrivati a 1.200.000 disoccupati. Questo lo dico perché quando poi si giustamente chiede alla Grecia di fare i compiti a casa, di tagliare la spesa pubblica, di combattere un nero che è un'evasione fiscale che è anche più alta di quella italiana, però poi uno deve fare i conti con la situazione attuale. Se c'è un paese in ginocchio in cui un giovane su due non lavora, un adulto su quattro non lavora, ci sono 400.000 disoccupati in più in un anno in un paese come la Grecia, voglio dire che è come se l'Italia in rapporto avesse avuto 1.300.000 disoccupati in più, 1.500.000 disoccupati in più in un anno. No, uno deve anche tener conto che se vogliamo evitare le sommosse popolari, un po' di tempo bisogna darlo alla Grecia. Tant'è che il Presidente della Commissione Europea, José Barroso, che tra poco alle 18.30 incontrerà Mario Monti, ha detto con questa disoccupazione c'è un'emergenza sociale reale, e il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, qualcuno lo ricorda, il famoso capo di quell'intervento di Berlusconi al Parlamento Europeo, ha detto oggi siamo vicini a una catastrofe quanto a disoccupazione. E ancora più preoccupato, se possibile, il Presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy, che ha detto la disoccupazione minaccia la stabilità politica dell'area euro e dell'Europa intera. Non è un mistero che non voglio evocare spettri del passato, ma insomma Hitler arriva in Germania quando il tasso di disoccupazione è straordinariamente alto, non arriva per l'inflazione, l'abbiamo spiegato molte volte, è una balla storica che Hitler arrivi perché c'era troppa inflazione in Germania, arriva perché la Germania nel 29, quando ormai l'inflazione era già sotto controllo, per non mollare sul rigore fa politiche così rigoriste che aumentano i disoccupati, e il Partito Nazionale Socialista dallo 0,8% che aveva nel 28 schizza a un 18% nel 32. E anche il ministro Elsa Fornero oggi a Bruxelles per la presentazione di questi dati ha detto occorre meno enfasi sul rigore e più sull'economia reale. Ben venga, tutti in questo momento stanno scoprendo che esiste anche l'economia reale, non solo quella dei conti e la ragioneria, diciamo, contabile del deficit fine a se stesso. La mia riforma non crea disoccupazione, ha detto la Fornero. Tra l'altro la riforma del ministro Fornero sta accolta come una riforma epocale da chi rappresenta Bruxelles. E poi c'è anche un ulteriore passaggio su quello che riguarda anche la vicenda Alcoa. Ha detto infatti il ministro, il governo dalla parte dei lavoratori, sarebbe sbagliato dire però che garantirà quei posti di lavoro. Nel frattempo una lettera di interessamento per l'acquisizione dell'Alcoa è arrivata oggi direttamente da Glencore e non dalla controllata Portovesme SRL. Perché questo? Perché il governo, il ministero soprattutto, lo sviluppo economico, è rimasto infastidito, perplesso, dal fatto che la lettera di interessamento non fosse arrivata dalla casa madre, la Glencore, inizialmente, ma dalla controllata Portovesme. Adesso è arrivata anche quella, dalla casa madre, che per spiegarla tutta ha una maggior forza, dimostra un interesse ancora maggiore. È stata inviata al Ministero, condiziona l'interesse ai tre nodi già posti, le diseconomie legate alle problematiche sugli alti costi energetici, sul personale e sulle deficienze strutturali. Però è arrivata anche l'offerta di Clash, che è un fondo svizzero di private equity specializzato nell'industria mineraria e metallurgica. Lo ha annunciato lo stesso sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti, spiegando appunto che è arrivata una lettera per riaprire il negoziato. Parleremo anche di turismo, perché ad agosto c'è stato per la prima volta un calo delle presenze negli alberghi italiani, -1,1%, -3% gli italiani, +2% gli stranieri. Già questo indica che il problema è degli italiani, nel senso che il potere d'acquisto è quello che è in questo paese. Io devo dire, poi abbiamo intervistato oggi Benna Babocca, presidente Federalberghi, che senza voler far di tutta un'erba un fascio, anche in molte località italiane, se gli albergatori si dessero una mossa, si svegliassero, non avessero sempre questo atteggiamento un po' da selvaggina da passo con i turisti, non sarebbe male. Mi riferisco non a alberghi, agriturismo, quant'altro, ma mi riferisco anche a località storiche di questo paese, in cui tanto si preferisce colpire una volta piuttosto che investire nel lungo termine. Non voglio far arrabbiare nessuno, ma insomma ognuno pensi a quello che vuole. È andato a confrontare i prezzi e i servizi offerti. Comunque questo è il dato. Nei primi 8 mesi del 2012 il calo delle presenze è stato del 2,5%, -6% gli italiani, e gli stranieri +1,2%. Il fatturato degli alberghi italiani segna un calo del 10% a causa di prezzi fermi ormai da 3 anni e di accorte politiche tariffarie difficili da sostenere a lungo. Di consumi parleremo comunque nei prossimi giorni, perché oggi la Coop ha diffuso nel suo rapporto sui consumi i dati sul 2012, che passerà alla storia come l'annus horribilis per i consumi, l'anno più difficile dal dopoguerra, peggiore di quello registrato nel 2008-2009, no, lo dico così. Addirittura i prezzi nel 2013 saliranno del 5%, ossia 400 euro a famiglia. Ultimo dato, l'estero, l'export extra Unione Europea nel mese di luglio è andato bene rispetto a luglio del 2011, +9,5%, +22% il nostro export in America, +20% nei paesi produttori di petrolio, l'OPEC, +20% in Giappone, +17% in Turchia, -16% in Cina, a dimostrazione che comunque laddove c'è richiesta le nostre aziende, continuiamo a ripeterlo, riescono le nostre imprese a esportare, tutti i dati sono e vanno in questa direzione. Vabbè, mentre il 2012 sarà l'annus horribilis, l'anno peggiore per i consumi addirittura dal dopoguerra, così dice l'analisi delle COP, il rapporto COP 2012, noi continuiamo con il nostro appuntamento con la crisi degli altri, cioè di quelli che la crisi non la sentono, se ne fregano, non la vogliono vedere, di quelli che la cinghia non la stringono, ma casomai la allargano. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E allora, oggi ci occupiamo della regione Friuli Venezia Giulia. Già ce ne occupammo per, se non ricordo male, vado a memoria, per gli avvistatori di neve. La ricerca di 20 posti per avvistatori di neve. Uno doveva uscire da casa a guardare se c'era la neve, dice sì, c'è la neve, e per questo veniva anche pagato. Oggi ce ne occupiamo perché fratelli, sorelle, figli, cognati e cugini degli amministratori del Friuli Venezia Giulia potranno adesso festeggiare. Mi serve anche quel Totò Italiani, se ce l'abbiamo ancora. Festeggiano la legge che impediva ai loro congiunti di dare soldi regionali alle società dei parenti è stata almeno in parte abolita. La legge fu introdotta nel 2000, stabiliva da Roberto Antonione, che era di Forza Italia, stabiliva che non era ammissibile concedere incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti di qualunque tipo tra la società a cui si venivano concessi e chi li concedeva, ossia coniugi, parenti e affini fino al secondo grado. E invece adesso abbiamo una notizia fondamentale per il destino della regione Friuli Venezia Giulia. Eccola, 12 anni dopo, infatti, l'attuale maggioranza, ancora di centrodestra, ha inserito due righe di interpretazione autentica. C'è scritto che tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato, di promozione sociale, privi di finalità di lucro. Insomma, la cosa bella, che adesso si beccherà l'applauso di oggi, è che la modifica, giusto per essere sempre trasparenti e non aver nulla da nascondere, è stata fatta alle 3 di mattina del 4 luglio. Alle 3 di mattina del 4 luglio. Il comunicato stampa era così generico che non se n'è accorto nessuno, se n'è accorto, e gliene diamo grazie, Marco Baldico del Piccolo di Trieste, giornale di Trieste, perché il comunicato era molto vago. Ma che strano, alle 3 di mattina del 4 luglio, notte tempore, la giunta riunita, vedete che lavora la giunta del Friuli Venezia Giulia, madonna se lavora, e con un comunicato generico. L'applauso alla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, ai parenti, ai cognati, ai figli, ai congiunti, tutti quelli fino al secondo grado. E invece una notizia serissima riguarda Save the Children, l'organizzazione che si occupa di difendere i diritti dei più piccoli del mondo. Pensate che dopo 95 anni che esiste, è una delle più importanti al mondo, ha deciso di raccogliere soldi non per i bambini africani, ma per i bambini britannici, con un programma che si chiama It Shouldn't Happen Here, cioè non dovrebbe capitare qua, non dovrebbe succedere qua. Sono state raccolte 500.000 sterline, circa 630.000 euro. Bambini poveri sarebbero quelli che stanno in famiglie che guadagnano meno di 17.000 sterline l'anno, sarebbero 3 milioni e mezzo. Pensate che uno su quattro lo scorso anno ha rinunciato alla gita scolastica, uno su otto non ha un pasto caldo quotidiano, uno su sette non può immaginare di comprarsi un paio di scarpe. E questa è la Gran Bretagna, paese in cui le differenze sociali esistono e come. Mi chiedo, lo dico senza polemica, dopo i dati che abbiamo visto sull'OCSE e sulla disoccupazione, cosa stia avvenendo in Grecia, cosa avverrà in Spagna, cosa potrebbe avvenire in Italia. Ma non voglio rattristarmi, voglio essere anch'io come i parenti dei consiglieri regionali di Friuli Venezia Giulia, contento però per quello che è successo oggi a Francoforte. Bella giornata, dicevamo, Mario Draghi ha confermato tutte le attese, anche quelle di un'Europa che cresce meno del previsto, purtroppo. Addirittura l'Italia crescerà del meno 2,4%, quest'anno, le stime riviste al ribasso in tutta Europa, una media -0,6, -0,2, cioè tutta l'area euro sarà in recessione nel 2012 in media, non la Germania, e l'inflazione crescerà un pochino, ma insomma c'è stato il voto sulla Banca Centrale Europea e sulla decisione di acquistare debito, bot, bonus dei paesi in difficoltà. Il voto non è stato unanime, c'è stato infatti un dissenso. It was not unanimous. There was one dissent in view. We don't disclose. Il voto non è stato unanime. C'è stato un voto in dissenso. Non riveliamo mai i dettagli. Non diciamo chi. Sta a voi indovinare. Penso che il voto di oggi si commenti da solo. Non solo gli ex membri della lira, ma anche gli altri, con decisione quasi unanime, sono a favore degli acquisti di bond. Quindi non credo a questa caricatura di una cosa italiana. Non è così. È stato il Consiglio direttivo che, quasi all'unanimità, ha deciso questa misura. Voglio anche sottolineare che siamo sicuri di agire all'interno del nostro mandato. Non stiamo violando l'articolo 123. È scritto esplicitamente che è vietato l'acquisto sul mercato primario perché sarebbe una violazione, ma non lo è per gli acquisti sul mercato secondario, dove appunto questo programma agirà. Vorrei sottolineare che l'acquisto diretto di bond è previsto dall'articolo 18 dello statuto della BCE. È uno dei vari strumenti a disposizione della politica monetaria e lo possiamo usare. Quindi oggi non stiamo creando alcun strumento nuovo. Beh, insomma, un passaggio importante in cui Mario Draghi dice basta con questa caricatura dell'italianità, dell'italiano che fa un favore all'Italia. E attenzione, questa è una bella frecciata anche alla Bundesbank. C'è un articolo che prevede che la BCE possa acquistare non direttamente quando c'è un'asta di titoli di Stato, ma sul mercato secondario, come facciamo noi tutti quando compriamo titoli di Stato. Pochi istanti fa la Bundesbank però si è svegliata, Hans Widmann ha detto che di essere contrario al piano di acquisti limitati titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. Lo ringraziamo, lo sapevamo, è un mese che lo dice, va bene, il mondo è bello perché è vario. Ma la cosa interessante su cui dovrebbe interrogarsi Widmann, visto che le banche tedesche, soprattutto le casse di risparmio, non sono messe così bene, è come mai le banche popolari tedesche e le casse di risparmio hanno approvato la decisione di Mario Draghi. Evidentemente potrebbe far comodo anche a loro, eh? O ci dimentichiamo di Commerzbank che stava per saltare per aria. Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte, buonasera. Buonasera a voi. Beh, non essere triste, c'è una bellissima notizia, no? La vedo solo io bella? Pronto? Credo che Draghi abbia confermato le attese, nel senso che ci si aspettava che annunciasse i dettagli di questo piano, non è entrato in tutti gli elementi e soprattutto ha detto che il piano è una metà di quello di cui c'è bisogno per salvare l'euro, l'altra metà la devono fare i governi, prima chiedendo gli interventi e in secondo luogo facendo tutto quello che predichiamo da tempo, cioè le riforme strutturali, il risanamento di bilancio, eccetera eccetera. Quindi il salvataggio dell'euro si regge su queste due gambe. Noi abbiamo fatto la nostra parte, vediamo se adesso i governi faranno la loro e vedremo quanto tempo ci vorrà, anche perché naturalmente nel frattempo dovrà intervenire la Corte Costituzionale tedesca e poi ci sarà un Ecofin a metà mese. La Spagna è un po' recalcitrante, qualcuno dice che il fatto che prima le promesse adesso i fatti di Draghi hanno creato una situazione di mercato in cui la Spagna potrebbe essere disincentivata a chiedere questi aiuti e quindi sottoporsi a questa condizionalità. Però Draghi ha risposto alle attese e ha risposto alle attese anche la Bundesbank, come citavi, nel senso che ha espresso pubblicamente il suo dissenso. Sì, no, per carità, è importante che esprima il suo dissenso la Bundesbank, dovrebbe spiegarci perché invece le banche popolari, le casse di risparmio tedesche sono contente. Io qualche sospetto ce l'ho, ma non voglio dilungarmi su questo. Dopo il meteo e la pubblicità, Alessandro, vorrei capire poi anche un'altra cosa, perché lui ha Draghi ha detto anche, insomma, l'euro è irreversibile, difenderemo l'integrità dell'euro. È sembrato andare anche oltre al semplice acquisto di titoli di Stato e ha chiarito che questa cosa si può fare, no? Che l'acquisto sarà illimitato, ma si può fare di titoli di Stato da 1 a 3 anni. Ha detto anche che sarebbe opportuno coinvolgere il Fondo Monetario Internazionale. Sentiamo anche questo passaggio di Mario Draghi. The Governing Council today decided on the modalities for undertaking. Il Consiglio direttivo ha deciso oggi le modalità del programma di acquisto di bond sul mercato secondario, chiamato OMT, Outright Monetary Transactions. Dobbiamo essere nella posizione di difendere l'integrità della politica monetaria dell'Eurozona. Dobbiamo preservare l'unicità della nostra politica monetaria per garantire la trasmissione delle nostre decisioni all'economia reale della zona euro. Il programma OMT ci consentirà di affrontare le forti distorsioni che agitano i mercati, distorsioni che si basano su paure infondate circa la reversibilità dell'euro. Il primo e importante aspetto del programma di acquisto è la sua stretta condizionalità. Il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale va cercato ed è benvenuto. La molle degli acquisti di titoli di Stato non ha limiti prefissati e sarà adeguata a raggiungere i suoi obiettivi. Aggiungo che la BCE potrà decidere eventuali sospensioni dei suoi interventi nel caso in cui il paese beneficiario non rispetti gli impegni presi. La BCE potrà procedere ad acquisti di bond tra 1 e 3 anni di scadenza senza prefissarsi un limite ex ante sull'ammontare di queste operazioni. No ex ante quantitative limits are set on the size of outright monetary transactions. ...17:38, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Alessandro Melli, tra l'altro domani Il Sole 24 Ore uscirà con 10 pagine di speciale proprio sull'impatto delle decisioni di oggi della Banca Centrale Europea, impatto che in borsa ha significato un rialzo del 4,30% e titoli bancari tra il 7% e il 10% di rialzo, anche 11%. Dicevo, 10 pagine sulle 24 ore di domani, ma anche la risposta dei mercati, la guida al piano di azione e le ricadute per i risparmiatori. Mi è sembrato che Draghi si fosse tolto e si sia tolto qualche sassolino dalla scarpa, perché non solo ha confermato il piano di acquisto di debito, ma ha anche detto: noi difenderemo l'euro ad ogni costo. Sì, in questo Draghi ha confermato quello che aveva detto nel famoso discorso di Londra di fine luglio, che ha messo poi in movimento questo processo che è arrivato alle dichiarazioni di oggi, cioè faremo tutto quello che è necessario per salvare l'euro. Al tempo stesso, come dicevamo prima, oggi Draghi ha ribadito che da solo non può fare tutto da solo, cioè lui farà la sua parte, gli altri facciano la loro, e chiaramente richiamo ai governi, in primis a quelli dei paesi in difficoltà, ma anche agli altri. C'è solo una precisazione che vorrei fare. Draghi non ha parlato di acquisti illimitati, ha semplicemente detto che non verranno fissati limiti in anticipo a queste operazioni. Che cosa vuol dire? Perché questa differenza? La BCE ovviamente non comprerà in modo illimitato tutto il debito pubblico italiano, tutto il debito spagnolo finché ce ne sarà bisogno. Semplicemente si vuole tenere le mani libere di comprare quanto necessario di volta in volta. È una cosa molto importante. Perché? Perché il programma di acquisti di titoli che la BCE aveva prima, il famoso S&P che aveva messo in atto prima con la Grecia nel 2010, poi l'Italia e la Spagna nel 2011, non ha funzionato, anche perché fin dall'inizio la BCE è sembrata farlo in modo molto riluttante, dicendo precisamente questo, cioè che era un programma limitato e temporaneo. Stavolta dice: non fisseremo limiti in anticipo, il che non vuol dire illimitato, nel senso che adesso Draghi scende in campo e tutti quelli che hanno titoli di Stato italiani o spagnoli glieli possono rifilare. Credo che sia una distinzione abbastanza importante, però non c'è dubbio che Draghi mette sul tavolo la sua autorevolezza. Sì, devo dire che allora, c'è un rischio, in questo senso hanno ragione i tedeschi, i finlandesi, gli olandesi. Il rischio è, lo abbiamo visto anche con il precedente governo Berlusconi, quando vi fu un primo aiuto e si allentò il tasso di riforme e di misure, diciamo, per ridurre il debito pubblico. Il rischio è che se tu sai che la Banca Centrale Europea interviene a comprarti il debito, il piano di rientro, di tagli, di riduzione della spesa, puoi rallentarlo. In realtà però, lo scrivono molti ascoltatori, in realtà però sarà importante capire a quali condizioni la BCE andrà a comprare per conto del fondo salva stati i tuoi bot, perché se queste condizioni sono durissime o sono dure, e la Germania su questo secondo me si giocherà qualche carta, beh, non è un passaggio facilissimo, se ho capito bene Alessandro, chiedere questi, cioè è un passaggio di un paese in difficoltà, ma non è fatto gratis. Beh, sicuramente non è fatto gratis. Draghi ha parlato di condizionalità severa e fatta rispettare in modo severo. Quindi non c'è dubbio che non è un pasto gratis e su questo credo che non ci sia discussione. È anche vero però che alcuni di questi paesi, in particolare l'Italia e la Spagna, che poi alla fine sono quelli che sono in mirino in questo momento, un bel po' di cose le hanno già fatte, l'Italia forse più della Spagna. Quindi una volta che ci si mette al tavolo a discutere di quel famoso memorandum of understanding, cioè la lettera di impegno con la quale i paesi vanno a chiedere i soldi alla BCE, ai fondi salvastati, le cose fatte o comunque gli impegni già presi conteranno per qualcosa. Beh, credo che bisogna vedere, certo, appunto, se ci saranno degli impegni addizionali che verranno richiesti, e questa è la preoccupazione soprattutto del governo spagnolo, il quale sì, ovviamente è un governo non tecnico ma politico, oltretutto un governo che era stato eletto con una campagna elettorale dicendo votate per noi, l'austerità è finita, quindi ci sono evidentemente dei problemi politici ben precisi, questo però no, ma devo dire che tu hai ragione nel ricordare che le riforme l'Italia ne ha fatte, ce lo riconoscono da tutte le parti, Fondo Monetario, Commissione Europea, OCSE, non saranno riforme definitive, non avranno fatto contento molte persone, però prendete un paese come la Francia, deve ancora iniziare a affrontare il tema dell'età pensionabile, eh? E non è che la Francia viaggi semplicemente, ha un debito che è sull'80% del PIL, per cui attenzione a questo. Devo dire che lo spread è sceso a 378 punti, non lo vediamo così da praticamente aprile, marzo-aprile, e questa è una buona notizia. Molti di voi chiedono se la Germania non rischia di rimanere isolata. Beh, Angela Merkel oggi ha detto la BCE è indipendente, agisce nel quadro del suo mandato, cioè Angela Merkel è in campagna elettorale e vuole distinguersi dai falchi. Ripeto, ne parleremo nella seconda ora con Giulio Sapelli, torna il nostro avvoltoio Sapelli, però il fatto che le banche popolari e le casse di risparmio tedesche siano a favore della BCE vuol dire che anche in Germania il fronte non è poi così unito. Intanto grazie ad Alessandro Merli, il corrispondente del Sole 24 Ore da Berlino. Molti di voi criticano Draghi, l'inglese di Draghi, non è vero che sia buono, fa schifo, Draghi non ha fatto nulla, insomma non siete mai contenti, alcuni di voi non sono mai contenti. Insomma, a me sembra che l'Italia da uno come Mario Draghi sia ben rappresentata all'estero, però vedo che in questo paese c'è sempre qualcosa da dire. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Vabbè, a noi invece Mario Draghi piace, ci sembra che si stia muovendo con equilibrio, che mantenga una BCE con una rotta interessante e senza farla diventare una filiale bancaria della Bundesbank, come vorrebbero evidentemente alcuni. Poi vedremo tutti i meccanismi attuativi, vedremo come funzionerà esattamente e quali garanzie verranno chieste. Adesso c'è il traffico e poi commentiamo la borsa, più 4,30%, dicevo. I bancari, sulla via delle decisioni di Draghi e del calo dello spread, sono schizzati. Banca Popolare di Milano più 11, Emilia Romagna più 10, UbiBanca più 9, Unicredito più 8, Impregilo, che non è un bancario, più 6, Generali più 6, come il Banco Popolare, Mediobanca e anche Intesa San Paolo, Monte dei Paschi più 5,30%. Cioè 7:47 minuti, dunque la borsa festeggia, devo dire grazie anche a Wall Street che va bene, è in questo momento l'1,80%, ma molto bene anche Parigi, più 3%, Francoforte più 2,91%, quindi festeggiano anche le banche tedesche, Londra più 1,94%, non a caso quella che cresce meno perché non fa parte dell'euro. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, tutto su dopo Draghi, lo abbiamo detto, la discesa dello spread l'abbiamo raccontata, su Mediobanca però pesa anche il rinnovo della fiducia a Nagel nonostante l'inchiesta per la vicenda fondiaria SAI. Sì, i titoli hanno imboccato la strada del rialzo a inizio agosto e praticamente hanno segnato un progresso dietro l'altro, sospinti dalla speculazione che qualcosa stia per succedere. Ieri il CDA ha confermato la propria fiducia all'amministratore delegato Alberto Nagel. D'altra parte sul mercato è come se si continuasse a scommettere che qualcosa possa succedere in piazzetta Cuccia. Nelle settimane scorse si è parlato anche di uno scorporo dell'attività di advisory dell'istituto rispetto a quella delle partecipazioni. Certi titoli avevano raggiunto quotazioni molto basse e si dice che alcuni soci non ne fossero affatto felici. Evidentemente il mercato continua a scommettere che qualcosa stia per accadere, anche oggi appunto ha fatto salire le quotazioni del 5,99%. Su Luxottica invece, che è il peggior titolo, l'unico titolo negativo, perché vanno bene anche tutti gli altri, adesso ve li racconto. Luxottica meno 4,80%, qui il gruppo del vecchio ha deciso di collocare il 7% delle azioni a 27 euro per azione e il titolo si sta muovendo. Sì, ieri sera è stato dato l'annuncio, poi in verità oggi è stato collocato il 3,8% delle azioni, il collocamento è arrivato a 27 euro, livello inferiore ai prezzi di mercato, e così le quotazioni ovviamente hanno subito il contraccolpo di questa operazione, si sono avvicinati al prezzo del collocamento, comunque si sono portate, hanno chiuso a 28 euro. La holding continua a tenere saldo il controllo, visto che ha limato la partecipazione, ma detiene comunque il 62,1% di Luxottica. Ancora in pregilo molto bene, e non è un bancario, chiaramente più 6,24%, quasi a 3 euro per azione. In questo caso si continua a scommettere che magari il prossimo 18 settembre il CDA darà nuove linee direttive per il gruppo, e già nelle scorse settimane è emerso che comunque la società dovrebbe cedere la partecipazione in Ecorodovias, l'azienda che detiene in America Latina, e dovrebbe inoltre distribuire un dividendo straordinario. Ancora andiamo avanti, Generali cresce come tutto il settore bancario assicurativo, però c'è anche l'ipotesi di un alleggerimento della quota Mediobanca in Generali, Sì, esatto, 6,20, infatti anche in questo caso Generali, diciamo, anche sotto l'occhio della speculazione, visto che anche il Sole 24 Ore di quest'oggi sostiene che alcuni soci, ci potrebbe essere un riassetto nell'azionariato. In particolare è già da qualche giorno che circola l'ipotesi che Mediobanca, che detiene il 13,5% del capitale, abbia allo studio di alleggerire la propria posizione, e pare inoltre che anche la Banca d'Italia, che detiene il 4,6% delle azioni, per evitare eventuali conflitti di interesse possa valutare l'uscita dall'azionariato, mentre altri soci, come in primis lo stesso Leonardo Del Vecchio, che detiene il 2% delle azioni, potrebbero invece aumentare appunto la propria partecipazione. Poi allora sempre in merito alla società, questa mattina però è stato detto che sono stati rivisti gli accordi per la cessione delle israeliana Migdal. Giusto, in verità Migdal, il prezzo di cessione avverrà a 705 milioni anziché 835 milioni. Brava Eleonora, ve l'ho ricordato. Monte dei Paschi più 5,31, Fiat più 4,80, Buzzi Unicem più 4,60, Enel Green Power più 3,90, Mediolanum più 3,80 come Eni ed Exor, Atlantia più 3,60 come Fiat Industrial ed Enel, Pirelli più 3,40 come Mediaset e Telecom Italia. il 3,30 l'ha guadagnato Snam Rete Gas, il 3,14 Saipem, ma anche Prismian e Finmeccanica. Mi fermo col 3%, ultimo commento su RCS, Rizzoli Corriere della Sera, dopo essere cresciuta di oltre il 300% da fine agosto, oggi perde un 15% e ci sta tutto. Bene, però altri titoli legati al mondo dell'editoria. Sì, oggi si sono messe in evidenza le azioni dell'Espresso, in verità hanno un po' frenato sul finale, hanno chiuso con questo più 3,8%, certo le azioni sono sotto l'occhio della speculazione perché anche in questo caso notizie di stampa hanno riferito che potrebbe nascere un accordo tra l'Espresso e Sky Italia, staremo a vedere che cosa succederà nel mondo quindi dell'editoria e dell'informazione. Grazie, grazie Leonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Sì, vedo che alcuni continuano a insistere, ma lei è innamorato di Draghi, attenzione che si sloga la lingua, Barisoni. Ma insomma, io non capisco perché se c'è un italiano che all'estero ci rispetta, che viene rispettato, compie un'operazione non per noi, ma per difendere l'euro, nonostante la miopia tedesca, che parla un buon inglese, che è inattaccabile, tant'è che anche in Germania hanno problemi a trovare qualche, se non l'accusa, che è un italiano. Non capisco perché... Cosa volete dire? Che mi sono innamorato di Mario Draghi? Mario Draghi, I love you. Volete che faccia così? Per favore, qua cerchiamo di essere Mario Draghi, I love you, con il suo inglese. Vabbè, dai, diventiamo seri, torniamo a essere seri. Sì, sono innamorato di Mario Draghi. E vabbè, allora, sono innamorato di Mario Draghi. Detto ciò, c'è un dato invece che oggi non è bello, ed è il dato sul turismo italiano. Perché? Perché per la prima volta da sempre gli alberghi ad agosto hanno avuto un calo, dell'1,1%, non è mai successo e il motivo si chiama minor turisti italiani, meno 3%, mentre gli stranieri sono aumentati del 2%, il calo del fatturato nei primi 8 mesi è del 10% per il mondo degli alberghi italiani. E allora la nostra Valeria De Rosa ha chiesto a Federalberghi, al presidente Bernababocca, un commento su questa estate più che sottotono critica. Un'estate sottotono, anzi un'estate critica, con un calo importante di turismo italiano ed europeo in genere e dall'altra parte un aumento, viceversa, una crescita di turismo straniero soprattutto dai paesi del BRIC. Il problema è i prezzi, le tariffe che gli alberghi hanno dovuto diminuire per mantenere livelli di occupazione decenti e quindi a fronte magari di un calo del 2% delle presenze abbiamo cali purtroppo di fatturato a doppia cifra. Questo non è positivo perché bucare il mese di agosto per gli alberghi al mare è come per gli alberghi in montagna bucare le vacanze di Natale. Senta Presidente, i consumatori hanno subito detto che in realtà sarebbe servito un taglio ulteriore di tariffe per agevolare il momento difficile per gli italiani. Ma guardi, questa leggenda che gli alberghi italiani sono cari per fortuna viene sfatata da internet, cioè internet permette al consumatore di avere online in diretta la situazione delle tariffe e dei prezzi degli alberghi italiani. Io le posso garantire che rispetto all'anno scorso ci sono cali del 10-15% sulle tariffe. Dall'altra parte bisogna considerare che l'introduzione dell'IMU, l'introduzione delle tasse di soggiorno, la non deducibilità dell'IRAP causano un aumento di costi per le strutture alberghiere, per cui i prezzi più di tanto non possono scendere, se no significherebbe avere gestioni alberghiere in perdita e questo sicuramente non ce lo possiamo permettere, ma le posso garantire che oggi gli alberghi italiani guadagnano molto di meno degli alberghi europei in genere. Presidente, io ho guardato i dati che sono stati diffusi anche dalla Banca d'Italia relativi a un'analisi sul turismo e sui flussi turistici in Europa negli ultimi 10 anni e l'Italia ha perso una consistente fetta di mercato a scapito di altri paesi come Spagna e Francia, quindi diciamo che c'è una problematica che va avanti da più di qualche anno. Se sicuramente, mentre noi pensavamo che bastasse chiamarsi Italia per attirare turismo da tutto il mondo, altri paesi viceversa più che pensare hanno fatto. Eh sì, ed è un'autocritica quella del presidente di Federalberghi. Ripeto, non voglio creare polemiche, ma insomma ognuno pensa agli alberghi di questo paese, magari anche località del nord, vicine alle grandi città, no? Una regione, la Liguria, ma anche altre, e pensi a quanto hanno investito gli albergatori in generale su strutture leggermente downtown, senza essere affascinanti. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi anche sulla crisi, o meglio sul dato più brutto da sempre per gli alberghi italiani ad agosto. Alcuni dicono: ma dove sono questi prezzi abbassati? Fatemi sapere in quali alberghi. Io dico: va bene, è probabile, lo vediamo dai dati aggregati, che i prezzi degli alberghi italiani si siano fermati in questi anni. Resta il fatto che c'è, a mio avviso, una sproporzione, non in tutti gli alberghi, ci sono alberghi che hanno molto investito, ma nelle località, diciamo, dove c'è maggiore monopolio, ecco perché citavo la Liguria per esempio, perché ha il bacino di Milano, Torino e Genova, o anche alcune località nell'alta Toscana, ma insomma, in cui non si vede un investimento serio nelle strutture alberghiere da anni, mentre i prezzi sono quelli europei. Gli albergatori su questo una riflessione dovrebbero farla, non tutti, per carità. Guardate quanto bene vanno gli agriturismo come dato disaggregato, laddove c'è un rapporto prezzo-qualità spesso migliore, ma una riflessione va fatta, perché sennò continuare a piangere e dire che è colpa dell'italiano che non consuma, rispondo anche a un ascoltatore, non sto chiedendo gli hotel di Stato modello sovietico, sto solo dicendo se tutti hanno la coscienza a posto per come si sono comportati negli anni delle vacche grasse. Mi sembra una domanda legittima. Noi torniamo invece sui temi più forti di oggi, e quindi la decisione di Mario Draghi, ma anche i dati che sono arrivati sul fronte occupazione in Italia, e partiamo proprio dallo scenario sulla disoccupazione, perché oggi l'Ocse ha presentato dei dati, ahimè, non belli, ma per quello che riguarda i paesi OCSE in generale. Poi ci sono i dati della Commissione europea per quello che riguarda invece l'Europa, con picchi di disoccupazione in Grecia. Al 24,5% la disoccupazione in Grecia, vuol dire un greco ogni 4 non ha lavoro. Se andiamo a guardare i giovani dai 15 ai 24 anni, siamo al 55%, un giovane ogni 2. 116 milioni i precari, i lavoratori a rischio povertà secondo l'Unione Europea nel rapporto Jobs for Europe. La disoccupazione nell'area euro è all'11,2%, ma pensate che il 94% dei lavori creatisi nel 2011 erano part-time, e il 42% dei giovani che hanno l'euro nel portafoglio ha contratti a tempo determinato. Tant'è che il presidente della Commissione europea Barroso dice che la disoccupazione è un'emergenza sociale reale, e il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy dice la disoccupazione minaccia la stabilità politica dell'area euro. Nel giorno in cui appunto Mario Draghi ha compiuto un'operazione a mio avviso importantissima, e di questa operazione parliamo anche in questa parte con uno spettro che aleggia sull'Europa, non è quello evocato, è uno spettro molto più simpatico, un uccellaccio che ogni tanto ci viene a trovare. Professor Giulio Sapelli, che insegna storia economica. Eccola, è tornato. Allora, è contento oggi? La borsa festeggia più 4%, 4,30, tutti i bancari in rialzo. La borsa festeggia, gli occupati un po' meno, potremmo dire. Gli occupati hanno problemi con la borsa, della spesa. Non c'è dubbio, hanno problemi con la borsa della loro casa. Naturalmente questa è la discrasia che avremo sempre più dinanzi a noi. Perché mentre mi pare che un assestamento per quello che riguarda la finanza bancaria e la finanza che è stata prodotta dall'eccesso di rischio, gli asset tossici, i derivati, eccetera, si arrivino delle operazioni di contenimento grazie di fatto a un coordinamento sotterraneo e implicito tra Banca Centrale Europea e Federal Reserve realizzato nella persona di Mario Draghi, che sfida le pattuglie tedesche in rastrellamento, e beh, invece, come aspettavamo, anni di deflazione, di austerità, stanno producendo delle conseguenze spaventose per quanto riguarda le persone, per quanto riguarda le persone comuni, per quanto riguarda tutti, anche tutti noi, insomma, non certo lei che gode di straordinari stipendi giornalistici, quindi sappiamo tutti che fate parte della casta, ma per esempio della carta, della carta, sì, insomma. Invece la questione dei sopra degli scherzi è molto molto grave, e questi dati dell'OCSE dovrebbero far meditare questi ideologi fautori dell'austerità in un momento di depressione. No, io dicevo con molta serietà, come si chiedere alla Grecia. Pensate che la Grecia in un anno ha avuto 380.000 disoccupati in più, a 1.200.000, che vuol dire, come mutatis mutandis, in proporzione l'Italia avesse avuto in un anno 1.400.000. Ora, ma ci rendiamo conto, in un anno in più, perché il totale fa 1.200.000. Ora, chiedere alla Grecia di fare i compiti, mettere a posto i conti, è giusto, ma chiedere di stringere ultimamente la cinghia quando praticamente non hai più buchi è un'altra cosa, Sapelli. Ma lei non ha mai parlato con un fondamentalista. Il fondamentalista si circonda la pancia di bombe, soprattutto quella non sua, ma quella degli altri, e manda il bambino kamikaze. La troica è fatta da persone così. La troica è il presidente della Bundesbank. Questi non hanno Widman, ecco, Widman, lei mi alza un asse, perché Widman oggi, dopo che Draghi ha chiarito, lo possiamo fare perché è previsto dagli articoli, cioè possiamo comprare i titoli di Stato perché è previsto dall'articolo 18. Certo, lo faremo in maniera illimitata. Certo. Con dei vincoli. Adesso vi faccio sentire il passaggio in cui Draghi spiega esattamente tutto, non da parte unanime, per favore, in regia l'altro, quello in cui spiega esattamente il meccanismo tecnico del fondo OETM, di come funzionerà. Dicevo, Widman si è messo subito a dire siamo contrari al piano di Draghi, infatti non è stato unanime. È mancato un voto, penso, tedesco. Certamente. E la cosa che però mi fa impazzire è che mentre la Bundesbank, la banca centrale tedesca, è contrarissima a questo piano, in Germania le banche popolari, le casse di risparmio, quelle più piccole, chissà perché, hanno detto bene, molto bene, l'iniziativa della Banca Centrale Europea. Forse anche in Germania il fronte non è più così compatto. Sentiamo Mario Draghi. The Governing Council today decided on the modalities for undertaking outright. Il Consiglio direttivo ha deciso oggi le modalità del programma di acquisto di bond sul mercato secondario, chiamato OMT, Outright Monetary Transactions. Dobbiamo essere nella posizione di difendere l'integrità della politica monetaria dell'Eurozona. Dobbiamo preservare l'unicità della nostra politica monetaria per garantire la trasmissione delle nostre decisioni all'economia reale della zona euro. Il programma OMT ci consentirà di affrontare le forti distorsioni che agitano i mercati, distorsioni che si basano su paure infondate circa la reversibilità dell'euro. Il primo e importante aspetto del programma di acquisto è la sua stretta condizionalità. Il coinvolgimento del Fondo Monetario Internazionale va cercato ed è benvenuto. La molle degli acquisti di titoli di Stato non ha limiti prefissati e sarà adeguata a raggiungere i suoi obiettivi. Aggiungo che la BCE potrà decidere eventuali sospensioni dei suoi interventi nel caso in cui il paese beneficiario non rispetti gli impegni presi. La BCE potrà procedere ad acquisti di bond tra 1 e 3 anni di scadenza senza prefissarsi un limite ex ante sull'ammontare di queste operazioni. No ex ante quantitative limits are set on the size of outright monetary transactions. Mario Draghi, I love you. Sapelli, mi hanno accusato di essere innamorato di Mario Draghi. Sono malato? È un problema serio? No, anch'io sono innamorato allora di Mario Draghi, perché è l'unica sponda che le persone di buon senso hanno in questa furiosa perdita degli obiettivi di lungo periodo che ha la signora Merkel e i suoi accoliti neoclassici, i bocconiani tedeschi. Parola, no? Cioè, loro... Guardi che se la sente Monti, oh, mezzo governo. Ma semmai anche lui va la cosa, perché lui in Europa fa una politica keynesiana, in Italia fa una politica dell'austerità che ci sta ammazzando tutti. Me la ridice, questa, in Europa Mario Monti fa il keynesiano? Fa una politica, beh certamente, perché va lì a implorare la BCE che compri i nostri titoli, faccia una politica di quantity easing, cioè come la Federal Reserve. Arriva in Italia e naturalmente qui c'è questa forma di sdoppiamento, no? Una forma di schizofrenia, e invece si trasforma in un fanatico dell'austerità nella profonda depressione. E chiaramente si mette contro le piccole e medie imprese, si mette contro tutti i commercianti, gli artigiani. La stessa cosa che sta capitando in Germania, perché lei, quella cosa che lei ha detto sulle banche rasoterra, sulle piccole banche tedesche, che sono quelle più vicino, anche lì cominciano ad avere il fiato sul collo della deflazione. Guardate che la Germania deve vendere, no? Le sue merci. Se l'Europa va in rovina e si trasforma in un deserto, i tedeschi, le persone di buon senso, la Merkel ha perso completamente il buon senso perché vuole essere diretta, secondo me. Gli economisti invece no, l'economista neoclassico, quelli di oggi che ragionano solo con la matematica, non ha nessun rapporto con la realtà. Allora, Angela Merkel però sta cambiando rotta, vuoi che c'è vento elettorale in Germania, perché ha detto oggi la BCE deve restare indipendente, la Banca Centrale Europea agisce in un quadro del suo mandato, ed è sembrata praticamente non essere così. La Bild oggi, il quotidiano tedesco Bild, ha detto: la Merkel accetta l'acquisto di titoli di Stato, una Merkel un po' più morbida, e questo è il fronte europeo. Poi però io devo, come lei diceva, se Mario Monti si sdoppia ed è keynesiano quando va a Bruxelles o a Francoforte, ed è molto rigorista, Friedman, Chicago School, quando è a casa nostra. Lui non se ne accorge forse, perché bene, non sa bene la distinzione. Adesso, professor Sapelli, non mi faccio entrare in polemica con il Presidente del Consiglio, per favore. Scusi. Insomma, è una cosa tra voi professori, non voglio centrare. Per carità, io sono un professore all'antica, insegno all'università statale, un'altra cosa. Va bene. Vorrei invece tornare al fronte nostro, perché al di là dei dati sulla disoccupazione che abbiamo visto, ci sono anche casi molto recenti, devo dare anche un aggiornamento sulla vicenda Alcoa, e soprattutto vorrei capire da lei quando questo effetto di protezione dell'euro si spargerà sulle piccole e medie imprese che continuano a dover chiedere prestiti pagando il 2-3% di tasso di differenza rispetto alle tedesche. Quando ne vedremo anche noi qualche effetto, cioè se è l'inizio di un processo o se è solo la messa in sicurezza delle banche europee. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, professor Sapelli, la buona notizia c'è tutta, le borse festeggiano, i titoli bancari oggi hanno guadagnato tra l'8 e l'11%. Però vorrei capire, la posizione di Super Mario Draghi è una posizione che mette in sicurezza o va verso una messa in sicurezza solo delle banche, cioè del sistema finanziario dell'euro, o avrà finalmente degli effetti anche sulle piccole e medie imprese, sugli artigiani, sui commercianti? Cioè, permetterà di liberare risorse? Cioè, è l'inizio di un processo per tutti noi o festeggiano solo le banche e i banchieri? No, ancora no. Come ha spiegato molto bene Bernanke, della Federal Reserve recentemente, queste misure che si incrociano con gli obblighi che le banche hanno in base agli accordi di Basilea, che li obbligano ad avere livelli di capitalizzazione molto elevati, finora tamponano i problemi delle banche europee e cercano di abbassare lo spread dei titoli di Stato. Il vero problema è che la soluzione ai problemi nazionali, cioè il credito alle imprese dei singoli Stati europei, deve avvenire attraverso le banche dei singoli Stati. Finora solo le banche cooperative cercano di far fronte ai problemi della piccola impresa e degli artigiani e dei commercianti. Le grandi banche capitalistiche, quelle che vediamo tutti i giorni sulle pagine dei giornali, sono impegnate in una profonda operazione di ristrutturazione. Naturalmente anch'esso forniscono credito alle imprese, ma in una misura estremamente ridotta da quella del passato e piena di vincoli che molto spesso anche imprese che vanno bene non riescono ad avere, certo, crediti dalle stesse banche. Lei ne ha parlato. Abbiamo fatto una puntata proprio lunedì mostrando che fino al 2011, certo, il, certo, tasso che costava a una piccola impresa, sì, italiana, sì, chiedere, sì, un, sì, milione, sì, di euro era, sì, quasi, sì, identico, sì, a quello di un'impresa spagnola, tedesca e francese. Certo, da, certo, quando parte l'attacco all'euro, e non è che l'Italia fosse messa meglio un anno fa, no, da no, quando, no, parte, no, l'attacco all'euro, adesso alle imprese, sì, italiane costa il 3%, cioè tassi che in Germania sono del 3,5-4%, da noi sono del 6,5-7%. Mi faccio dire una cosa però agli ascoltatori: guardate che la Banca Centrale Europea, poi lo scopriremo quando avremo i dettagli del piano, non è che comprerà a debito dell'Italia o della Spagna gratis, ci saranno dei vincoli durissimi per questo, per cui non è vero, ah, in questo modo Draghi ci permetterà di pagare i forestali siciliani, no, cioè se tu non rientri, non hai un piano di rientro su deficit e debito, la Banca Centrale Europea non interviene a comprare deficit e debito. Vorrei dare un aggiornamento sull'Alcoa, perché da un lato la Glencore, il gruppo interessato a rilevare la fabbrica di Portovesme, ha scritto una lettera che proveniva dalla casa madre, non più dalla controllata sarda, come chiedeva il Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'altro c'è un interesse del fondo di private equity svizzero Clash, il ministro Passera dice è tutto da verificare, e di questo ha parlato anche il sottosegretario De Vincenti in un intervento al Senato. Glencore non ha mandato una lettera ad Alcoa, ha mandato una lettera al Ministero, alla Regione e ad Alcoa, però sostanzialmente interpellando Ministero e Regione. Abbiamo invitato Glencore a questo punto a formalizzare il suo interesse direttamente con una lettera ad Alcoa di proposta di apertura del negoziato, e stiamo sollecitando la società svizzera a riaprire in modo esplicito, anzi ad aprire, perché ripeto, a suo tempo non aveva mandato la lettera per aprire il negoziato, quindi a mandare una lettera di apertura di negoziato ad Alcoa. Dall'altra parte, ieri contemporaneamente Alcoa ha ricevuto, e per conoscenza abbiamo ricevuto anche noi, una lettera della Clash, che a sua volta propone di riaprire il negoziato che si era fermato nel giugno scorso, perché la preferenza era andata su Aurelius. It's getting late, è tardi. Professor Sapelli, lei ha scritto, sì, sul Corriere un'accorata difesa, ricordo un po' come Pasolini delle lucciole, sì, sui minatori del, sì, Sulcis. Allora io vorrei essere molto concreto. Un complimento in questo senso. Sì, beh, ogni tanto mi capita, Sapelli, non ce l'ho con lei, però il Sulcis e zone così depresse, quanto possono, quanto distante, quanto siderale la distanza tra Mario Draghi e il Fondo SM, è un'area in cui praticamente la disoccupazione è al 22%? Beh, certamente che è siderale, innanzitutto perché lì questi eroi del lavoro, come li ho definiti, beh, pagano 30 anni di illusioni e di cose che hanno loro raccontato che non avevano nessuna possibilità di realizzarsi se non attraverso, quello sì, uno sperpero di denaro pubblico. Questo non mette in discussione la loro volontà, la loro tenacia del lavoro, ma lì bisogna rendersi l'evidenza. Al Sulcis bisogna fare quell'operazione di grande livello di trasformazione territoriale che hanno fatto tutti gli insediamenti carboniferi in Europa, cioè sono diventati dei parchi minerari, sono diventati delle attrazioni di tipo scientifico, turistico, e hanno riqualificato i minatori. Abbiamo fatto un'operazione di questo tipo già 30 anni fa, mi ricordo, nella Miata, ed è un'operazione che aveva avuto degli ottimi esiti. Dobbiamo farla anche lì, smettendo di illudere queste persone che sono veramente degli eroi del lavoro e a cui non è più dignitoso raccontare delle storie. Il carbone del Ciulcis è un'invenzione mussoliniana dell'autarchia, nasce già con dei carichi di zolfo, con delle inefficienze terribili. Questo non toglie poi che ci siano state delle persone come questi minatori che abbiano lavorato come degli argonauti, come degli eroi, creando anche una loro cultura, ecco, però questa cosa qui non ha più nessun sbocco, quindi io ho fatto un elogio a queste persone, ma nello stesso tempo ho sentito il dovere etico di non continuare a raccontare loro delle favole. Professore, torni a volare, grazie a Giulio Sapelli, ad aleggiare su di noi, Focus Economia termina qui, domani in diretta da Chernobyl. Professore, mi sente? Sapelli ancora lì? No, volevo sapere che ne pensavi di Chernobyl. Noi siamo in diretta domani dal workshop Ambrosetti. Intanto da Sebastiano Barisoni, buona serata. Radio 24, la passione si sente.